sicuramente più interessante della lettura di un libro. Pochi ma buoni, mi viene da dire poche ma buone, come quasi sempre in queste occasioni. Siamo qui per parlare di ovviamente Un cuore al buio, Kafka. Ringrazio Massimo Hassan che ho invitato a commentare il libro calorosamente, lo ringrazio. E non so, mi aspetto grandi cose dai suoi commenti, quindi ho grandi aspettative. Non aggiungo altro, quasi tutti sapete di che libro sto parlando. Comunque, in brevissimo, abbiamo cercato di riassumere e di dare credito alle donne che sono riuscite ad amare Kafka, per me praticamente impossibile. E quindi di mettere a nudo il loro coraggio in questa alle volte lunghissima esperienza. E abbiamo raccontato l'amore per Kafka ovviamente dal loro punto di vista, per risarcirle del fatto che sono state chiaramente dimenticate a favore del genio letterario. Aggiungerei solo che darei la parola un attimo a Livio per una tua breve, anche tu, presentazione e poi cominciamo a tempestare di domande, Massimo. No, io potrei aggiungere solo che questo era nato come idea di raccontare storie di donne. In verità, attraverso queste donne siamo arrivati a raccontare la storia di Kafka uomo. E quindi l'interesse può essere per questi personaggi femminili che sono personaggi molto particolari, con forti personalità, vite a volte anche drammatiche, e però esce a tutto tondo il personaggio Kafka, con le sue titubanze, con le sue incertezze, con i suoi dubbi ripetuti, con la sua incapacità soprattutto di prendere decisioni, che è uno dei grossi temi della vita di Kafka, perché è uno dei temi che lui tratta anche nei suoi libri. E quindi direi che in noi stessi che abbiamo scritto è nato un interesse nuovo, che ci siamo accorti che è venuto qualcosa che non avevamo intenzione di mettere a luce, ma che viene indirettamente fuori. Massimo, allora, la prima domanda che ti vorrei fare è, secondo me queste quattro donne sono molto diverse, tre sono ebree. Io lascio stare un po' Julie perché è stata una parentesi d'amore nelle storie più importanti di Kafka, quindi ne considero quattro. Sono donne molto diverse, tre ebree e una cattolica, ma tutte veramente innamorate da Kafka e come qualcuno mi ha detto, è riuscito a essere amabile Kafka con loro, tanto che tutte e quattro rimangono legate all'uomo. Non, magari alcune non più innamorate, ma comunque lo ricordano tutte con affetto. Secondo te, come fanno così tante donne ad avere il coraggio, pur essendo così diverse, a essere innamorate di quest'uomo? Io dico perché sono innamorato io di quest'uomo. Poi dopo ti chiederò come mai tu ti sei dedicata, tu e anche Livio, vi siete dedicate con passione e quindi a studiare un capitolo che sembrerebbe secondario rispetto all'universo kafkiano, cioè quello delle sue relazioni con le donne. Per me l'universo kafkiano è interessante perché ti lascia a bocca aperta. Io lo definirei un labirinto vertiginoso. Sono dimensioni orizzontali e verticali. Un labirinto perché è sempre il luogo chiuso, quello in cui lui ti porta, che sia la tana, che sia la gabbia. La tana è il racconto, la gabbia è un altro racconto. Che sia la stanza di Gregor Samsa, che sia la cantina in cui lui suol chiudere per scrivere e per espandersi il più possibile, e quindi senza vedere nessuno. In questa chiusura, in realtà, come dice lui, questa chiusura è necessaria, Canetti lo sottolinea, per espandersi all'infinito. Quindi è un labirinto che in realtà espande mentre chiude, così come la vertigine è anche quella, ti porta in alto e in realtà risucchiato in basso, cerca di raggiungere il castello e viene in qualche modo risucchiato in un vortice che gli impedisce di fare qualunque cosa, muore nella metamorfosi come uno scarafaggio per essere buttato via nella spazzatura e diventa mortale così. Quindi in queste dimensioni così complesse e così anche angoscianti e grottesche, voi avete scelto un capitolo specifico, l'amore di Kafka per le donne, le donne per Kafka. Questo mi è interessato, ho detto, guarda, imparerò qualcosa a cui non ho fatto attenzione. E infatti questo vostro percorso lineare che va dal primo incontro, giugno 13, di Kafka con Felice a casa di Max Brod, fino alla morte di Kafka con Dora, avete fatto un segmento che copre in maniera lineare tutta la sua storia, che ci dice qualcosa anche appunto di come lui si è avvicinato gradualmente al rapporto con le donne, prima partendo molto lontano, poi avvicinandosi un po'. Quindi ho detto, imparo qualche cosa che non sapevo. Leggendo questo libro mi sono posto domande, forse non è un tema così secondario. Quindi ti dico prima di tutto perché io mi sono innamorato. Tre motivi. Uno, se uno legge cerca Kafka, prima cosa, scrittore ebreo, boemo, di lingua tedesca. Dopodunque, quindi già tutti pongono un problema identitario. Personalmente mi chiamo Hassan, sono ebreo, vengo da un paese arabo e parlo italiano. Quindi questo problema identitario io l'ho avuto da sempre. Quindi questo già fa sì che mi sia interessato questo autore. Seconda cosa che cerco poi di dimostrare nel dettaglio, io inconsapevolmente, che non sono, sono un po' un guardone dei social, ma non li pratico, su Instagram nel tempo ho messo due immagini, non pensandoci, quella di Groucho Marx e quella di Kafka. Dici, cosa c'entra uno con l'altro? Cerco di dimostrare dopo che sono intimissimi, non solo perché sono ebrei entrambi, non solo perché entrambi sono molto legati al teatro Yiddish. Se avete letto La età padre, l'epiteto insetto schifoso è quello che il padre dà a Löwe, un attore del teatro Yiddish che è amico di Kafka, che è il padre di Kafka. Quindi è quell'immagine dell'insetto schifoso è dedicata all'attore Yiddish. Quindi perché li collego? Perché sono due artisti che praticano benissimo, in maniera vertiginosa, un'arte la cui espressione narrativa ha a che fare molto col pensiero inconscio, col funzionamento dell'inconscio, il quale funzionamento ha delle leggi nei suoi derivati narrativi abbastanza determinate delle regole. Due di queste, le più importanti, citate dall'autore, sono la condensazione e lo spostamento. Le parole stesse spiegano il senso. La condensazione è quando delle immagini amnetiche vengono, delle rappresentazioni vengono condensate in una sola per rappresentare più immagini, più pensieri. Lo spostamento è lo spostamento dall'immagine a un'altra, nell'investimento psichico. Entrambi, il motto di spirito di Groucho Marx e il pensiero onirico trasformato in letteratura di Kafka usano queste leggi. Poi questa cosa non è solamente una cosa teorica, è una cosa molto pratica. Se avremo tempo potremo vedere come nel testo Kafka è ironico quanto lo è Groucho Marx. Sembra strano perché Kafka a legge è angosciante, è grottesco, è disarmante, però poi vedremo come questa tesi è proponibile. Terzo motivo del mio innamoramento, però appunto poi mi sono dedicato al vostro, ma è che secondo me Kafka parla a partire dal, sappiamo che la età padre ci racconta quanto il papà lo umiliasse, quanto fosse un uomo difficile, quanto abbia determinato la sua identità dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, però ci parla del suo sentimento di inermità, dell'impotenza, l'essere atterrito. Ma questo sentimento non è solamente quello di Kafka, perché ha avuto un papà così, tocca qualunque essere umano. E lui ci parla di questi sentimenti così faticosi, con dell'impotenza, dell'inermità, con dei vertici assoluti. E questo tocca a me e credo che tocchi comunque altro, se ci facciamo toccare. Quindi questi sono i motivi perché sono tre dei motivi perché sono nato in casa. Però leggendo il titolo ho detto, oh, interessante, andiamo a capire per quale motivo una donna e un uomo sono curiosi di capire cosa succede nella relazione amorosa di Kafka con le donne. È un tema che, ripeto, sembrerebbe apparentemente secondario e forse invece non lo è. Quindi la domanda prima che ho io da farvi è come mai quell'interesse specifico in un universo kafkiano così confuso, enorme, come dicevo prima, labirintico, penso che avete affrontato in maniera lineare cercando di trovare le conseguenze, e la mia prima domanda è questa. Ma sicuramente io sono interessata più alle donne che agli uomini in generale, e mi aveva molto colpito al Museo di Praga il fatto che al Museo di Kafka che le donne fossero proprio emarginate all'interno della sua storia, mentre erano donne che secondo me avevano uno spessore, un valore di per loro, per cui ho cominciato un po' a indagare. Dopodiché avevo un lato troppo femminile e femminista rispetto alla questione relazione amorosa con un uomo così, io insisto nel dire, nevrotico, per cui ho chiesto a Livio di cercare di guardare l'altra faccia della medaglia dal punto di vista quindi maschile, perché da sola sarebbe diventato un libro molto contro un uomo incapace di amare. Secondo me lavorare a quattro mani con due menti completamente diverse, non solo perché maschio e femmina, ma perché abbiamo anche pensieri diversi in generale, poteva dare una visione più equilibrata al tentativo, perché per me lui faceva dei tentativi, al tentativo di amare di Kafka. Detto questo, sicuramente volevo anche capire come ci sono donne, a differenza mia, che riescono a donarsi, ad avere un coraggio che per me è inavvicinabile. Ed è anche una forma, un coraggio che è anche una forma di generosità, in questo senso, perché amare sacrificandosi senza chiedere niente in cambio. Io non credo di esserne stata mai capace e mi piaceva l'idea di scoprire donne che ne erano state capaci senza vergogna, mantenendo una loro dignità. Credo che questo che mi sia piaciuto, in particolare lo dico sempre di Milena, perché veramente lei si è spesa nei confronti degli uomini, nonostante anche lei avesse un padre difficilissimo come Kafka, e non si è vergognata di mantenere l'amante del marito, per esempio. Per me è una cosa ancora adesso inconcepibile. Quindi credo la mia ricerca sia stata cosa una donna può arrivare a fare pur mantenendo una dignità interiore. Spero di aver risposto nel libro a questo. Sì, è forse impreciso dire che lui non ha la capacità di amare, perché lui in verità si innamora. Conosce per la prima volta questa felice a casa del suo amico Max Brod e la vede lucidamente nel suo essere fisico. Vede che non è una donna affascinante. Descrive nel suo diario tutti i dettagli della donna che non sono certo elogiativi. Non è offuscato dall'amore. Però scrive nel suo diario e ci aggiunge qualche puntino, però evidentemente qualcosa in lui lo ha suscitato questa donna. Quindi uno potrebbe arrivare a una facile conclusione, però lui insomma non è gentile con questa donna, invece no, lui è semplicemente rigoroso. È rigoroso nel cercare sempre di raggiungere i valori assoluti, la verità. E quindi è rigoroso anche nell'amore, nel voler amare una donna anche se non la vede trasfigurata in una bellezza che non è. Per di più lui sente bisogno di amare, sente bisogno di amare, tanto è vero che questo bisogno di amare, che si traduce nelle lettere che lui scrive a questa donna, che non vuol vedere perché per quasi un anno le scrive lettere, però ogni volta che c'è l'occasione per vederla, Natale, altre festività, eccetera, si tira indietro. Lui sente bisogno di scriverle e sente bisogno di coltivare questo sentimento perché gli apre le porte della creatività. Aveva già scritto dei racconti prima di conoscerla, però le sue opere maggiori nascono proprio nella conoscenza di questa donna. Quindi in un certo senso nel suo subconscio sente che c'è il bisogno di amare per potersi liberare da tutte le inibizioni, cioè raggiunge quello stato di esaltazione che comunemente si descrive nelle persone innamorate, che gli permette di liberarsi dai tanti freni che gli impediscono di manifestare la sua capacità artistica. Quindi dire che lui non ha saputo amare, non ha saputo andare fino in fondo all'amore, non ha saputo reggere la continuità di un rapporto con una donna. Allora, l'interesse che mi nasce per le donne che hanno frequentato Kafka nasce dal fatto che ogni essere umano, in quanto persona sociale, è in quanto se stesso, ma è anche in relazione agli esseri con cui che frequenta. Conoscere, io quando lei mi ha proposto di occuparmi di questo libro, mi sono andato a cercare in biblioteca qualcosa di già pubblicato e c'erano degli elenchi di queste donne. Dicevo, ha frequentato queste, poi paragonavano questo con le figure femminili che lui ha scritto, però mi mancava qualcosa, un senso di frustrazione, perché dico, ho capito, ma non puoi farmi l'elenco con nome e cognome di queste donne, quattro righe e liquidarle lì, perché per capire il personaggio e le donne bisogna conoscere la loro vita, ma non solo la vita finché lo hanno conosciuto, non solo la loro relazione amorosa, ma conoscere queste donne nella loro interezza, dalla nascita fino alla morte. Perché effettivamente su certi personaggi che compaiono nel libro si può avere anche un'impressione critica, nel senso che dire questa si veste della camice della Croce Rossina, questa vuole salvarlo, questa vuole indurlo a una vita borghese. E però lui alla fine con loro scambia dei sentimenti ed è questa la ragione per cui viene amato anche dopo che le ha lasciate. E la Croce Rossina poi si scopre che invece conduce una vita eroica e quindi non può essere una donna, una donnetta che si mette ai piedi di Kafka e subisce il suo fascino perché scrittore e basta. È una donna che ha avuto una vita di ribellioni contro alcune forme istituzionali della sua famiglia, della sua religione, di certe forme intransigenti della religione, un desiderio di conoscere, un'altra passionale, lo ama ma non vuole esserne succube. La prima, questa Felice di cui parlavamo, difende la sua vita borghese. È per questo che non riesce né lei... Noi accusiamo Kafka perché l'ha scritto 600 lettere e non l'ha sposata. In verità, lui lucidamente, nei suoi diari, annota che è lei che non capisce chi è lui, che non vuole entrare nella sua logica e resta ancorata alla sua vita pensando di poterlo indurre ad adeguarsi, come si suol dire, tarpare le ali all'uomo. Più o meno questo era il suo segreto, cioè neanche segreto, inconscio desiderio, perché per lei sembrava naturale che uno dovesse ragionare come lei, mentre lui capisce che c'è una diversità e che non si può essere uguali e che ognuno deve difendere la sua personalità. Io mi fermerei qua per non... Aggiungerei solo una cosa sulla gabbia, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo già nominata la gabbia, e io sono dell'idea che Kafka è rimasto tutta la sua vita in questa gabbia, tentando con queste relazioni di avere delle aperture, ma sapendo che in realtà doveva solo scavare dentro la gabbia per finire nel suo buco. E da lì si arriva invece all'elevazione con la sua scrittura, ma lui cercava il buco dove stare il più solo possibile, e arriviamo al cuore, al buio, che, come ci siamo detti magari l'altro giorno, in fondo abbiamo tutti una parte buia, solo che lui ha avuto il coraggio di dire io ce l'ho, e noi la nascondiamo molto bene, noi. La maggior parte di noi non riesce a essere così esplicito e avere questo, anche lì mi viene da dire di nuovo, coraggio, forse è la parola al tema della serata. Vorrei sapere anche poi la cosa del divertente, perché cioè tiriamoli fuori questi esempi di divertimento, Kafka, sì. Groucho Marx. C'è questo equilibrio tra non dar troppo per scontato che le cose le sappiamo tutti, abbiamo... ci ricordiamo tutti, e neanche se è troppo prolisso. La gabbia, il suo corpo sottile, magro, malato, la stanza in cui scrive per espandersi all'infinito. Voi avete dato il nome Un cuore al buio. Lo fa come un po' un percorso, che è questo. Quando ha scritto il testo Non so per me, anche per Candide, perfetto, che è a Metamorfosi, ha scritto Kafka al suo editore non mettere in copertina lo scarafaggio. Non è uno scarafaggio, infatti lui non l'ha mai chiamato scarafaggio, ha detto grosso insetto. Ti prego, non reificarlo. Al limite metti una stanza al buio. Quindi torna a questo significante del buio. Perché in quella stanza al buio succedono delle cose, non è un oggetto edificato. Non l'hanno seguito. In quella stanza al buio, Gregor Samsa, che è protagonista, chiaramente come sapete, mostra questa stanza buia in cui si trova improvvisamente appunto metamorfizzato. È quell'insetto schifoso che rimanda all'attore Yiddish, di cui il papà parla male, che lui ama molto, frequentando il teatro Yiddish. Ma quell'insetto che si trova sul letto rovesciato e vede le zampine, a me, forse anche per il mio mestiere, mi ha fatto pensare non tanto a un insetto, quanto a un essere molto dipendente e piccolo, cioè un infante. Tanto sta che non so in tedesco se quale sia il termine, non parlo tedesco, ma gli autori traducono, quando lui a un certo punto prova a parlare e ha la voce che è cambiata, e la traduzione ha un pigolio. Il pigolio è il suono di un pulcino. E pensa Kafka, Gregor, se solo avessi due braccia che mi aiutasse a sollevarmi, appunto lui è inerme, impotente, sarebbe tutto più facile. Invece non ce l'ha e si butta per terra. Ma, forse non lo ricordate, io ho fatto attenzione, mi sono studiato un po' su, quando lui si sveglia, la prima cosa che vede è dal letto un tavolo da lavoro con sopra dei tessuti, che certo è il materiale del commesso viaggiatore che era prima di diventare un insetto, ma è anche in materia di lavoro del negozio del padre, che vendeva tessuti e varie cose. Negozio che è stato molto importante nella vita di Kafka, perché tutti ci lavorano. Della mamma parla poco, dice, ci lavora 12 ore al giorno, Julie. Quindi questo essere in mondo, questo onnivoro predatore, è anche una dimensione infantile, proprio di spostamenti e considerazioni. E ci sta anche raccontando questo, con la Teresa è anche un'ironia incredibile. E davanti c'è anche un'altra immagine che secondo me è la chiave di tutto questo discorso. Lui dice avevo strappato qualche giorno prima l'immagine e l'ho incorniciata in una cornice dorata davanti al letto di una donna che ha un collo e un manicotto di pelliccia. Allora se ci pensiamo, un infante, mettiamo che possiamo seguire questo mio filone, ha davanti un padre e una madre, ma lui imbocca delle braccia che sono negate al manicotto. Il manicotto le copre le braccia, quelle braccia non ci sono, non sono disponibili per lui, anzi sono braccia pelose, troppo calde. Allora volevo un po' cercare di intrecciare i fili di un discorso, appunto pensando un po' a questa immagine come un sistema emergente, un punto emergente di un intreccio, una condensazione appunto di vari livelli, varie dimensioni affettive, infantili, adolescenziali, adulte, appunto, di dimensioni di bisogni, di desideri, ha bisogno di braccia, si trova un calore così peloso. Sono un po' perso il quadro. E quindi lui ci sta dicendo che quelle braccia che lui cerca non sono fruibili. Ecco, mi ritrovo. Dico questo perché certo è interessante pensare che Kafka racconta nei dettagli dell'incontro con Felice, non solo che è Felice pieno di denti d'oro, che è abbastanza, ma che c'ha una stola di pelliccia. Poi da qualche altra parte, che non so di dove, ho letto che il papà vendeva manicotti di pelliccia nel suo negozio. Quindi questo significa, questa immagine a pelliccia rimanda a Felice, rimanda a una mamma, rimanda a un padre, e in questo intreccio costante di dimensioni affettive differenti. Questa è l'abilità di un pensiero letterario che appunto raccoglie un pensiero onirico. Da questo mi sono detto, andiamo a capire un po' meglio questa lettera al padre. Io avrei scritto una lettera alla madre, se fossi stato in Kafka. Mamma, perché papà mi fa così? Invece lui scrive al padre. E scrive al padre e fa degli accenni rari alla mamma. Io ho cercato qualcosa sulla mamma Julie. Ho trovato questo, che Giulia era intanto di famiglia più benestante del papà. E nella lettera al padre dice anche, tu eri così, mi umiliavi, umiliavi tutti, umiliavi i tuoi dipendenti, trattavi come cani, dicevi che andai cani. La mamma mi proteggeva, mi viziava. Mi viziava, certo, sicuramente mi ha viziato, e mi proteggeva tutto però in relazione a te. Cioè, è una protezione di che tipo? Lui dice, non è una protezione razionale, è una protezione sentimentale, perché lei è innamorata di te. Io non penso che la mamma fosse innamorata del padre, perché vedeva cosa succedeva in casa. E questo papà era abbastanza maltrattante, violento. E penso potesse essere innamorata della famiglia, di un sentimento. Siamo nel 1820, no? Chi fa il mio mestiere sa che se c'è un genitore maltrattante è perché c'è un genitore che non ti protegge, altrimenti non c'è. Poi, nel 1820 non era così, ma ne fosse neanche oggi. Quindi questa mamma è una mamma che da una parte mi protegge, dall'altra non ha le braccia. L'altra è una parte molto calda, ma è un caldo peloso. Quindi penso che questo sia il tema fondante di sottofondo delle azioni di Kafka con l'universo femminile. Con l'universo femminile. Che intreccia appunto magistralmente in queste dimensioni multiple, a vari livelli. Dico questo perché non solo in questa situazione che vi ho descritto della metamorfosi, ma anche Canetti ci mostra la sua interpretazione del processo. Voi sapete, scusate se forse dico cose che sappiamo tutti, che Kafka, quando chiede di sposare Milena, va in famiglia e si presenta, porta la sua famiglia da Praga a Berlino e fanno una grande festa. Felice. Ma da Berlino fa una grande festa. Poi nel suo diario scrive: erano tutti estranei. E 6 settimane dopo scopre anche la tubercolosi. Sei settimane dopo si pente e dice: torna indietro, me ne va. A quel punto lo convocano a Berlino, c'è Max Brod, che è il suo miglior amico, che ha detto di Kafka è l'uomo più simpatico che conosco. Così c'è Grete, quella con cui lui ha tradito Felice, e sono un po' di altre persone, e gli fanno un processo. Lo accusano, lui tace tutto il tempo. Quello che fa il processo, che lui sente, più che come la giudice più implacabile è Grete. Cioè, scusa, ti interrompo un attimo per fare pubblicità al libro. Tutto questo è raccontato nel libro, lo potrete vedere. Grete, quella con cui ha tradito Felice, è quella che fa il processo. 15 giorni dopo torna a casa e comincia a scrivere il processo. Canetti, che non è un cretino, ci racconta molto bene come in realtà la prima scena del processo non è altro che il fidanzamento di Kafka. Cioè, no, l'arresto. Avete in mente che la polizia, anzi arrivano due sconosciuti ad arrestare Kafka, il signor K, senza motivo. E Canetti mostra molto bene, questa è l'ironia, come in realtà il fidanzamento e l'arresto. Questo mondo di gente estranea, che lui non sa chi sia, non li conosce nessuno, che corrisponde esattamente al racconto che lui fa nei suoi diari. Erano tutti estranei intorno a me. Quindi lui viene arrestato, come si fidanza? La stessa, non solo perché intorno a lui sono tutti estranei come la festa, ma lui è vestito in abito da cerimonia. La seconda scena, lui va nella camera della signorina Buchner, che è una che abita, che è la padrona della casa dove lui abita, che non c'è, ma c'è una stola bianca su una sedia, senza motivo, ma la stola bianca è quella di Grete. Quindi Canetti ipotizza tutte queste intrecci, appunto queste condensazioni, questi spostamenti, questo pensiero onirico e questo anche ironico. La signora Buchner comincia con la B, rimanda a Greta Bloch. La stola bianca rimanda a Greta. Lui le salta addosso quando finalmente arriva la signora Buchner e la bacia violentemente. Quindi Canetti ci mostra come il processo comincia dopo l'arresto, dopo il fidanzamento. Lui ha questa relazione con Greta clandestina e da lì la colpa. Che non capisce. Perché la colpa non esiste per lui. No, lui dice a papà: tu non ti giudico, tu non sei colpevole, ma neanch'io sono colpevole. Quindi in quell'età lui libera tutti. Poi è chiaro che nel campo letterario si assume tutta la colpa, che non ha senso. Quindi vedete l'ironia di Kafka. Per finire, l'altro aspetto di grande ironia, è l'ultima scena che Canetti paragona al processo, quando viene condannato per quanto è processo, che gli fanno a Berlino, quando gli fanno processo a Berlino, l'unica che la difende è la sorella di Felice. Lo difende in quanto capisce che questo qua è un buon uomo. Lui stesso dice a se stesso: io sono un diavolo innocente. Quindi questa, la sorella di Felice lo protegge. E l'ultima scena prima dell'omicidio è lui che cammina, vede un palazzo, alza gli occhi e vede dall'alto una donna che si sporge e pensa: forse un amico. Canetti dice: è la sorella di Felice, è quella donna lì. Otla. No, è la sorella sua. Lui no, Kafka. Quella che lo difende, la sorella di Felice. Sì. E lui, Canetti pensa, quando lui si volta verso l'alto, vede questa persona dall'alto che si stende, magra, e pensa, forse un amico, dopo l'ammazzano. Quindi dice, quella lì è la donna, è la sorella di Felice, che in quel processo c'è qualcuno che mi protegge. Io aggiungo, forse è Felice, ma forse anche sua mamma che la guarda dall'alto, che l'ha protetta, ma alla fine non l'ha protetta per niente. Per cui io penso che Kafka con questa mamma avesse un rapporto molto caldo, molto intimo, ma una grande traditrice. Quindi tu dici, cioè, lo amava, lo difendeva la famiglia, ma non ha protetto il figlio. Questa è tutta una scena che Canetti sottiene essere appunto la sorella di Felice, quello che è, è anche presente la mamma che la guarda dall'alto, lui è piccolo. E quindi penso che questo sia un tema da cui nasce la mia domanda successiva. Perché una donna si innamora? No, allora, se fosse così, e se fosse, ho dimenticato una cosa importante, lui parla alla mamma dicendo: la mamma era, io sono come i lupi, famiglia materna, silenziosi e timidi, non come te che sei ruento, forte. La mamma silenziosa e timida ha avuto anche due figli morti prima di Kafka. Una mamma che vive, che lavora 12 ore al giorno in un negozio, un papà così violento. Io penso sinceramente, con tutti questi dati che abbiamo cercato di dare, che il cuore al buio fosse quello della mamma. Silenziosa e triste, che quel cuore al buio sia rispecchiato dal cuore al buio di Kafka. Cioè, uno non ha potuto scaldare l'altro solo in maniera pelosa, cioè con un sentimento vietato. Se così fosse, ci sarebbe da chiedersi perché una donna si innamora di un uomo così intelligente col cuore al buio? E l'altra domanda è: può una donna con un uomo così intelligente scaldare quel cuore? È una domanda che faccio a voi e anche chiaramente anche al pubblico, perché una donna si innamora tanto di un uomo da scaldare, che in realtà dice come premessa: mi scaldo solo con la scrittura. Dice a Felice: ti vorrei sempre anche una stanza chiusa fuori dalla mia. Ma infatti questa prigione non è che ce l'ha messo qualcuno, se l'è costruita lui, l'ha costruita e ci si adagia molto piacevolmente, nel senso che lui vuole essere isolato, non vuole essere tolto dal suo isolamento, però ha bisogno, come ogni essere umano, ha bisogno anche del mondo esterno. È questo conflitto che non riesce a risolvere. E però è in questo rapporto con queste donne che lui parzialmente riesce a superare questo problema. Da Scarafaggio comincia invece a uscire un poco, a rivoltarsi sulla schiena, perché nel processo di amore con queste varie donne poi in lui c'è un'evoluzione, c'è un cambiamento. E alla fine cos'è che vuole lui? Lui vorrebbe starsene al buio, perché concentrato sulla scrittura, nella sua ricerca dell'assoluto, della verità assoluta, non della spiegazione dei drammi umani, ma nel raccontare i dettagli del dramma umano, la soluzione. Come dice Chekhov, il compito dell'artista non è quello di risolvere i problemi, ma quello di raccontare i dettagli del problema, il segreto della scrittura. E in lui questa tensione forte è diretta in questa direzione. Quindi scavare nell'animo umano cercando le cose più vere. E in questo non si trova con molte delle protagoniste femminili, perché ognuna ha una sua modo di vedere le cose che non è il suo. E alla fine, però, quando è indebolito, trova la donna giusta che lo lascia nel suo buio e però gli sta vicino lo stesso, perché Dora, com'è? Moribondo, perché è più indebolito, però l'ultima donna, Dora, è una che gli rallegra la vita, però non invade il suo mondo letterario, non pretende di... anzi, evita di pronunciare qualsiasi giudizio su quello che lui fa. La prima donna, Felice, a volte sta zitta perché non capisce quello che scrive Kafka, ne è spaventata a volte, perché teme che lui realizzi le cose che lui racconta nei racconti. L'ultima invece donna che lui conosce, ce n'è una e mezzo, Milena, che invece lo ama proprio perché ama i suoi racconti, è una donna molto intelligente, sveglia, vivace, ha una vita intellettuale intensa, e l'ultima invece che pure è una donna, come si direbbe oggi, con le contropalle, però accetta di vivere accanto a lui lasciandogli il suo mondo creativo e non disturbandolo in questo, quindi lo lascia nel suo buco buio, però nei momenti di leggerezza gli concede qualcosa. E quindi direi che la sua vita subisce un'evoluzione proprio attraverso la conoscenza del mondo femminile, attraverso i rapporti umani fondamentalmente, rapporti di vicinanza con gli esseri umani. Sì, posso dire una cosa? Prego. Vuoi il microfono? No, voglio, a parte che riscendiamo dal livello alto dove siete voi, torniamo sulla terra, io volevo semplicemente dire che secondo me in questa stanza di Kafka buia non c'è spazio per l'altro. Sì. E stiamo parlando di relazioni, la relazione è fatta in due, lui l'altro non lo vede, queste donne possono stare in un'altra stanza separate, questo per lui è tollerabile, ma avere l'altra nella stanza fa sì che lui si chiuda sempre di più nel suo buco e si toglierga sempre di più. Aspetta Massimo, non cominciare. No, nel senso, la relazione è fatta dell'altro, l'altro lui non lo vede, l'altro esiste solo nella misura in cui, come avete ben raccontato, gli permette l'estasi e quindi la creatività. L'altro è sempre in funzione di lui, là e l'altro non lo vede, non esiste. Non sempre però, con Dora esiste. Con Dora esiste perché Dora si adegua completamente, sì, certo, a quello che è lui, ma non esiste Dora come persona, lui non scava nell'altro, nell'animo dell'altro, scava sempre nel proprio. No, la usa addirittura perché... Ma siamo d'accordo perché non ha avuto... Sì. Se usciamo da una logica moralistica, ma non pensiamo che Kafka, io prima ho detto, a mio parere Kafka è stato quello che è arrivato ai vertici nella descrizione del sentimento di impotenza, di inermità, eccetera, che appunto non riguarda il papà, riguarda cosa faccio io davanti all'altro, che altro magari può essere troppo caldo. Se si interroga appunto come faccio a dare voce, espande questo sentimento che voglio parlare stando nella sua stanza buia, l'altro è quello che ti pone una domanda, non è l'altro concreto, l'altro è quello che parlami di questa tua impotenza, l'altro è sempre quello che ti pone una domanda. Poi che sia incarnato, meglio. E infatti alla fine diventa Dora mentre muore. Prima non poteva. Fa un'operazione grandiosa Kafka, malato. E c'è un altro che gli chiede, parlami di questo, non posso che parlarmi, voglio fare solo questo. Quindi è vero che se l'altro, quello incarnato, fa fatica, ma bisogna che si avvicini alla stanza. Non può raggiungere, se no come fa a parlare di quel sentimento? Cioè, dice, io per parlare di quella roba, e io di quello il mio compito nella vita, bisogna che tu stia fuori da me, ma vicino. Quindi, però non gli riesce al 100% questo. Evidente. C'è un altro... di morire gli riesce al 100%. Sì, per quello, c'è un altro commento, e poi anche io vorrei dire qualcosa sulla... Kafka o comunque un personaggio e cercando di mettermi nella posizione di una delle donne, perché me lo sono domandata io stessa quando ho letto il libro, ma io, se avessi incontrato un personaggio come Kafka, come avrei reagito? E io ho questa sensazione che... allora, io mi sono molto arrabbiata per Felice, per il comportamento di Felice, cioè mi sembrava un idiota, no? E mi sono detta, ma in che modo io posso somigliare a Felice? Credo che ci sia un aspetto da croce rossina, molte donne hanno questa volontà, no? Di aiutare, tirare fuori. Però immagino, a me la sensazione, non so se la condividete voi, che Felice sia stata molto, aveva un aspetto anche molto di orgoglio, molto istituzionale, per cui lei si è sentita comunque osservata da un uomo importante, quindi che era molto valorizzato da suo cugino Max Brod. E quindi questo aspetto ha giocato con Felice, mentre le altre, nel rapporto con le altre donne è stato un rapporto diverso. Infatti è stato un rapporto anche dove comunque il corpo è entrato in gioco. E io ho la sensazione che magari una donna vada a cercare nell'uomo, in un uomo così, qualcosa che non ha risolto. Probabilmente Elena qualcosa che non ha risolto lei stessa, che aveva un rapporto col papà, mi sembra di capire un certo tipo, no? E quindi vai a cercare quell'uomo che ha quei problemi che, non lo so, però adesso io sto dicendo... Che pigoli, che pigola. L'uomo che pigola. Che ti riflette, che ti tira fuori tu da te magari. Però c'è anche una profonda convinzione borghese in Felice. Quindi c'è anche un'incapacità di interpretare il personaggio con cui ha la relazione. Mentre Dora no, Dora è veramente... cioè Dora è accogliente in fondo, infatti riesce a... Però mentre incontra Dora lui è vivo, non è malato. Quando incontra Felice, sì. Quando incontra Dora sa che muore. Quindi cambia il paradigma. Volevo farti un'ultima domanda su questa cosa della stanza buia, chiusa, perché tu sai molto più di me della metamorfosi. Lui a un certo punto è chiuso dentro, mi sembra ne abbiamo parlato l'altro giorno ma non sono sicura, e vogliono aprire la porta fuori e lui fa in modo, dice qualcosa all'insetto in modo che la porta non venga aperta. O ricordo male? Lui vuole rimanere. Apre la porta con la bocca, gira la chiave con la bocca. Sì, ma si mostra? Io non me lo ricordo la metamorfosi, ma so che non vuole farsi vedere. Sente quello che dice, viene a lavorare, che il suo dottore di lavoro che arriva, chiamato dai genitori per farlo andare a lavorare. Lui che si è finalmente disfatto dalle aspettative degli altri, dice no, mi assumo me stesso, anche a costo di essere considerato un insetto immondo, rimane chiuso dentro, mi ricordo se la porta è stata chiusa la mattina, la sera. E poi la apre con uno sforzo pazzesco con le mandibole. Quando lo vedono dicono mamma mia, schifo, allora corre dentro di nuovo. Poi uscirà un'altra volta quando la sorella suona. Quindi si mostra nella sua mostruosità. Sì, la prima volta si nasconde. La seconda volta con le mele, papà di me, si mostra il papà in pallina. La terza volta quando la sorella suona davanti agli ospiti, lui si mostra a quel punto davanti agli ospiti, lo caccia in via. Va bene, no, è un perché... esattamente. Torno un attimo alla madre, prossimo libro lo scriviamo sulla madre di Kafka. Una cosa sola, una cosa sola. L'unica donna di cui non abbiamo parlato. Lui dice una cosa bellissima, secondo le scorse prima. Quando la sorella, per fargli spazio, in realtà per togliergli tutto, con questo rapporto fraterno, che all'inizio sembra una speranza, alla fine diventa bestia. A un certo punto con la mamma gli porta via i mobili per lasciargli spazio e poter andare in giro per lì. A un certo punto lui dice sul quadro, il quadro non me lo faccio portare via, si schiaccia contro questo quadro. E quando lo porta via, se arrivano gli sputo in faccia. Sì, era un ironico. Cioè, era... La famiglia è mia. Eh sì, il problema è che la madre non ha saputo proteggerlo. Allora, lettera alla ma madre. Anche oggi è difficile. Per una esatto, mamma, infatti. Siamo in 1820. Vorrei invitare tutti noi a pensare a una lettera alla madre, perché potrebbe essere un buon esercizio per capire la nostra relazione con la madre. Lui ha avuto dei problemi enormi e secondo me è dovuto anche alla cultura, alla generazione di quella povera donna che ha fatto quello che poteva ai suoi tempi. Ma oggi si scrive lettere a telefono azzurro, non scrive alla mamma. È così, ma se una mamma sta lì, è perché come mai funziona quella situazione, altrimenti non è mai così lineare, no? Cioè sono sempre situazioni complesse. Oggi che Matteo fa duro se va bene. La mamma fa la mamma come crede che debba essere la mamma. La mamma fa la mamma come crede. Come gli anni '70. Si preoccupa perché non dorme, si preoccupa perché lo vede triste, va a frugare nelle tasche per vedere la lettera della fidanzata che gli scrive. Si preoccupa come immaginava che dovesse preoccuparsi una mamma. Come sua mamma l'ha insegnata a fare, esatto. Ma è silenziosa e timida. Esatto, sì. Quindi lui protegge tutti, alla fine del papato non c'entra, però alla fine nel suo testo come... Come concludiamo? Non possiamo dare tutta la colpa alla madre. No. E neanche al padre. No, ma guarda che io la colpa credo sia peggio di essere, fa male la colpa. Ok, quindi li assolviamo tutti. No, e diciamo che Kafka ha fatto il meglio possibile per quello che ha ricevuto nella sua famiglia. Come tutti. Come tutti. Quindi un pezzo di cuore al buio. Vedi che il nevrosi serviva, era funzionale, a sopravvivere, come diciamo. Sì, sì. Fa parte di la parte nevrotica di ognuno di noi, serve a. Sì. E poi avete detto anche. Sì, però dice sono riuscito a morire. Cioè. Per... qualcosa di più che nevrotico, perché anche un artista, quindi, che fa la notevole differenza, cioè, tra l'essere nevrotico ed esprimersi comunque in qualche maniera creando delle opere d'arte. Quindi non si... definirlo nevrotico sarebbe riduttivo. Io non mi azzarderei a definirlo, cioè sì. No, era anche nevrotico. Anche nevrotico. Beh, la nevrosi è tutta la sua vita. Sì. Lui descrive la nevrosi nei suoi racconti. Sì. Però una frase un po' forte, ma lui è riuscito a morire. Cioè il cambiamento che ha avuto nelle relazioni con le donne è stato anche grazie al fatto dalla prima ha cominciato a dire sono tubercolotico, quindi non ti consiglio di stare con me, fino all'ultima che ha accettato di avere accanto perché sapeva che aveva pochi mesi di vita. Con Dora non è stato dice, un anno e mezzo. Dice anche un'altra cosa, sono riuscito a farmi venire la tubercolosi. Esattamente. E il papà dice, tu mi hai tolto la voce, cioè non posso parlare, posso scrivere. Quindi, al padre dice. Al padre, ne hai al padre. Io non posso parlare, mi è colpito al polmone, posso scrivere, non posso parlare. Ai polmoni, aria. Va bene, grazie molte. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie perché ogni volta che ci incontro. Ci parliamo al telefono. Anch'io. Ed è bellissimo questo. Per questo che ci scopri. Okay. Yeah.